Il fallimento e il salvataggio di un pezzo enorme del sistema finanziario e quindi economico degli Stati Uniti d'America. È la prova che il mercato da solo tante volte non sa badare a se stesso. Il salvataggio fatto dal governo, la nazionalizzazione è stata la cosa giusta. Da noi le cose sembrano messe meglio, in ogni caso potete essere sicuri che il governo farà quanto basta e quanto è giusto e che è in grado di farlo.